Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Lisa Corva, autrice di Ultimamente mi sveglio felice, pubblicato da Baldini e Castoldi. È un romanzo così romantico, potremmo dire. C'è la protagonista, una ragazza che vive nella solitudine, ha una madre tra l'altro che è malata, delle difficoltà, e che però insomma è alla ricerca del grande amore in qualche modo. Lisa, partiamo dalla protagonista di questo romanzo, che si chiama Benedetta, ma in realtà anche un altro nome, e che ha una particolarità, quello di dipingersi sempre le unghie di blu. Ci puoi parlare un po' di lei? In effetti, in questo momento in cui mi state intervistando, in cui vi sto parlando, ho le unghie dipinte di blu anch'io, ed è stata la prima cosa che ho visto di questa protagonista, perché davvero qualche anno fa, un paio d'anni fa, quando ho cominciato a scrivere il libro, ho visto per strada una ragazza come la protagonista del mio libro, bionda, capello liscio, bianca, di pelle, quindi non me, con queste unghie dipinte, questo blu fondente, blu scuro, blu oltremare, blu da cielo in tempesta. E un paio di anni fa il blu non si usava ancora per le unghie. E ho pensato, che strano, ma che effetto farà dipingersi le unghie di blu? E ho cominciato anch'io a dipingermi le unghie di blu, con un grande orrore di tutte le mie amiche. E è vero che ti dà qualcosa di diverso, perché è un colore inaspettato, è un colore audace, quasi come se pensassi: mi dipingo le unghie di blu e mi sento più forte, mi sento che mi possa capitare qualcosa di bello, inaspettato nella vita. E infatti per Benedetta diventano quasi un segno distintivo queste unghie blu. Sì, anche se lei comincia per caso, però diventa la ragazza con le unghie dipinte di blu. Ed è anche la ragazza che si veste di glitter, questa è un'altra cosa che ho immaginato. E perché ha sempre qualcosa di glitter, che sia una fila di paillette, che sia una sciarpa, che sia un giubbotto tutto glitterato, forse per il bisogno di luce che abbiamo tutti noi nella vita, in certe mattine grigie in cui ci svegliamo in città e non possiamo fuggire da nessuna parte. Com'è caratterialmente Benedetta? Benedetta è una donna, una ragazza, ormai siamo tutte ragazze, anche passati i 50, comunque è una ragazza forte, determinata, che ha un suo lavoro, una sua indipendenza, una sua determinatezza, un po' come le unghie blu, ma sogna. Ma del resto chi è che non sogna di innamorarsi? Ancora, aggiungolo ancora, perché quando non hai più 20 anni magari ti è capitato di innamorarti e che non sia andata bene, che la luccicanza sia sparita. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di questo romanzo è che la protagonista appunto vive molto la solitudine, e quindi per trovare dei contatti si rivolge al web, a Facebook, che è una cosa molto comune fra le trentenni, possiamo dire, di oggi. Come mai, secondo te? Allora, sul fatto di incontrare, anche a Benedetta capita di innamorarsi di un uomo che ha visto solo su Facebook e che nei primi capitoli del romanzo decide di andare a incontrare perché non abitano nella stessa città. Un uomo di cui sa solo che ha postato sulla pagina di un'amica una foto di un cielo. Ma più che Facebook, quello che mi interessava raccontare, perché penso che appartenga davvero alla vita di tutti noi, è questa che tu hai chiamato solitudine, che in verità è una solitudine vibrante, è una solitudine rumorosa, perché adesso, anche quando siamo da soli, anche quando Benedetta è da sola, va a dormire con i suoi due telefonini appoggiati al cuscino. E quindi mi interessava raccontare questo, che penso che sia di tutto, cioè questa solitudine vibrante digitale. Benedetta ha anche una mamma con la quale non va moltissimo d'accordo, come spesso succede a tutte le figlie femmine. La mamma è stata una figlia dei fiori, una hippie, e lei invece si ritiene un pochino più squadrata in qualche modo. Che rapporto c'è fra loro due? Una mamma hippie che ti insegna, che ti porta in passeggino alle manifestazioni alle manifestazioni per il diritto al divorzio, all'aborto, eccetera. Una mamma che ti cresce da sola perché magari non sai chi è tuo padre, come è successo a Benedetto, magari il padre è separato. Una madre che ti insegna a non credere nell'amore perché non è necessario. E quindi mi interessava vedere e raccontare questo scontro tra le donne che hanno fatto grazie, le ringraziamo, i 68 che hanno lottato per i diritti, che hanno lottato per il femminismo e che però magari ci hanno passato questo senso di non romanticismo. E soprattutto di non dipendere da un uomo. Io la capisco molto, Benedetta, perché mio papà, quando ero piccola, mi cantava come ninna nanna le canzoni politiche. Io sono stata convinta che il Pueblo Unido era una ninna nanna e non una canzone politica. A 5 anni mi si spiegava cos'erano le convergenze parallele e tutto l'arco costituzionale dal movimento sociale a democrazia proletaria. Quindi capisco bene la vita di Benedetta. E Benedetta, tra l'altro, ogni mattina, come atto di romanticismo, legge il Buongiorno, che è una poesia, su un giornale di Free Press, che è una cosa che tu, come Lisa Corva, hai fatto realmente. Ho tenuto per più di 3 anni un'esperienza meravigliosa che adesso continuo sul blog, perché ahimè quel giornale ha chiuso. Ho tenuto per più di 3 anni una rubrica sulla prima pagina di City, che era un Free Press che veniva distribuito in tutta Italia, metropolitana, gli incroci di strada, in autobus, eccetera. E per 3 anni, e tuttora continuo a farlo sul blog, scelgo ogni mattina come buongiorno dei versi di una poesia o delle frasi anche di un romanzo e li commento, così come mi ha scritto una volta un lettore: grazie Lisa per questi buongiorni veramente magnifici, peccato che ogni tanto li rovini con i tuoi stupidi commenti. Però queste pillole di poesia, è stato molto emozionante vedere in tutti questi anni come la gente, donne soprattutto, ma anche uomini, li abbiano usati e come mi hanno raccontato di usarle, quindi ritagliate dal giornale, incollate sull'agenda, mandati via sms, postati su Facebook. E una delle cose più commoventi è stata qualche mese fa: una ragazza mi ha scritto dicendo: in questi ultimi anni ho ritagliato i tuoi buongiorno più belli e li infilavo in tasca al ragazzo di cui mi ero innamorata e adesso ci sposiamo. Ultimamente mi sveglio felice, un titolo decisamente ottimista in un periodo in cui, insomma, spesso le persone, al di là della crisi, delle cose, però insomma si sentono un po' giù di morale, quindi vuole essere anche un messaggio di ottimismo. Sì, ed è sì, ed è il titolo è una delle poche cose autobiografiche, diciamo, del libro. Il titolo non è mio, è di una ragazza, di un'amica che non c'è più. Era il suo ultimo status Skype, a proposito di intimità digitale. Era una ragazza come tante, come poteva essere Benedetta, aveva 35 anni, aveva un viso da Madonna di Botticelli, capelli lunghi, separata, 2 bambine, si è ammalata gravemente. Ci parlavamo su Skype negli ultimi mesi perché non riusciva più neanche a parlare, e negli ultimi mesi ha messo come stato Skype, come sapete anche su Skype si può mettere una frase, così come su Facebook, ha scritto: ultimamente mi sveglio felice. E io sapevo che stava morendo, lo sapeva anche lei, e allora le ho chattato, le ho detto: che belle parole, ma quindi stai meglio, sperando, no? E lei mi ha risposto: no, però davvero Lisa, ultimamente mi sveglio felice, perché quest'uomo che ho incontrato, che non è il papà delle bambine, è un uomo meraviglioso e mi ama. Le bambine sono bellissime, la nuova compagna di mio papà mi ha regalato le Manolo che desideravo tanto e io davvero mi sveglio felice. E questa lezione di vita per me è rimasta, quindi il titolo è un omaggio a lei. Io non l'ho mai cancellata dai miei contatti Skype, ogni volta che vedo questa frase mi ricordo che è giusto svegliarsi felici. È giusto anche nella malattia trovare, diciamo, la forza, l'ironia anche. Adesso mi viene in mente, c'è un bellissimo blog su Vanity Fair online che si chiama Le chemioavventure di Wandy, e dove appunto una ragazza che ha il cancro parla ironicamente di quello che le succede, insomma. Tornando al tuo libro, come si fa a raccontare una storia appunto romantica, leggera, fra virgolette, senza scadere nella banalità? È un complimento, quindi non sono capace di rispondere. Accetto con gratitudine il complimento. E allora, per scoprire come è scritto il romanzo di Lisa Korva, non vi resta che leggerlo. Ve lo ricordo, si intitola Ultimamente mi sveglio felice, pubblicato da Baldini e Castoldi, scritto appunto da Lisa Korva. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter come Ale Teddina. Un saluto da Alessandra Tedesco.